ieri si è tenuta l'udienza finale con la sentenza del processo di primo grado per il processo di Budapest. Parliamo di eventi di ormai 3 anni fa, per cui la richiesta di condanna e anche l'offerta di patteggiamento avevano proporzioni abnormi, parlo di sproporzione rispetto alla materialità dei fatti contestati, ma anche rispetto al pacchetto di prove presentate. È un processo che chiaramente è minato sia dall'approccio, diciamo, della democratura ungherese, sia dal meccanismo anche poi giudiziario, che è particolarmente diverso da quello per esempio che conosciamo noi, quindi con un protagonismo anche del giudice stesso molto importante, dalla presenza di persone neonaziste, sia, diciamo, in pressione fuori dal tribunale dove si teneva la conferenza stampa dei familiari, sia con insulti, gesti anche all'interno appunto dell'aula. Inizialmente, in particolare per Maya, che lo ricordiamo comunque da ormai oltre un anno e mezzo è detenuta proprio a Budapest, una persona non binaria, diciamo in condizioni oltre che di fragilità legate ovviamente alle misure detentive, anche diciamo con una condizione particolarmente esposta in quel contesto, erano di 24 anni di carcerazione. Lo ricordiamo senza, come dire, un elemento probante personale in cui Maya faccia sia riconoscibile come persona attiva in qualche misura. Le condanne sono arrivate, 3 condanne, molto pesanti, anche se, diciamo, infinitamente inferiori rispetto a quello che era lo scenario, diciamo, le richieste di pena iniziali, quindi appunto 8 anni per Maya, 7 per Gabri e 2 per Anna. La posizione di Anna, essendo più leggera da un punto di vista penale, è parzialmente diversa, perché al momento non si parla appunto di restrizioni, mentre per quanto riguarda Maya resterà appunto al momento in carcere con minimo fino al, salvo cambiamenti, fino, diciamo, al processo di secondo grado, perché Maya ricorrerà in appello. Più enigmatica è la condizione di Gabriele, un compagno milanese, su cui appunto una pesante condanna di 7 anni attendere potrebbe riaprire, diciamo, un'istanza che già è stata rigettata dai tribunali italiani, che è quella appunto per l'estradizione. Il tema dell'estradizione è un tema comune anche ad altri stralci, diciamo, di questo processo, nel senso che tocca anche la vicenda di Gino, attualmente in Francia, ma non soltanto. Mi sembra importante così ribadire, e quella è un po' la lettura che dà anche la campagna Friuli Antifas, che il processo di Budapest è uno degli elementi, degli anelli di una catena che diciamo si sta dipanando con tanti dispositivi differenti. Penso all'abuso del mandato di arresto europeo, penso alla costruzione di questo, del teorema del movimento Antifa, che porta a rendere illegali presunte organizzazioni, ma questo poi ha ricadute molto pratiche invece per esempio sulle organizzazioni di supporto legale, e il riferimento ovviamente ai conti correnti di Rote Hilfe in Germania in particolare. Penso appunto alla discorso sul nemico pubblico, che in un contesto, diciamo, di guerra è assolutamente funzionale a costruire appunto il nemico interno, il soggetto da marginalizzare, il soggetto scomodo da identificare appunto come persona non legittima, come forma di attivismo non legittima, pericolosa, eccetera eccetera. Questo è il motivo per cui si sta lavorando in maniera così importante, perché proprio la dimensione transnazionale, diciamo, di questo tipo di ingranaggio è anche la dimensione transnazionale di riflesso che dobbiamo mettere in campo in termini di solidarietà antifascista, e dal basso fino alla conclusione di questo lungo procedimento, e nel tentativo appunto di non solo non lasciare nessuno da solo, ma anche, insomma, di provare attraverso questo a ricostruire una trama di solidarietà e di collaborazione internazionale adeguata alle difficoltà del momento. Ci saranno delle mobilitazioni appunto in solidarietà sia a Maya che ad Anna che appunto a Gabri. Invece, quale potrebbe essere il ruolo, oltre che chiaramente mobilitazioni dal basso, qual è il ruolo, quale poteva essere il ruolo della Germania nel caso di Maya, nel caso invece di Gabri dell'Italia nel processo? Allora, in merito alle date, appunto è stata fatta a partire proprio dal pomeriggio di ieri questa chiamata internazionale, per cui sappiamo, insomma, che a partire dal 12 a Pisa e poi il 14 in Piazza Missori, alle ore 15 a Milano e poi ancora a Roma, in occasione occasione anche di alcuni anniversari che già erano in programma e che vanno, insomma, in cui vanno a convergere anche le istanze di questo il processo. Penso a Valerio Verbano, penso a Dax nelle giornate di metà marzo a Milano. Insomma, si stanno cominciando a mettere in campo tante occasioni in tanti territori del paese per ridare visibilità e anche far sentire la nostra vicinanza. Rispetto al discorso del protagonismo di questi paesi che agiscono anche se in forme molto diverse, la Germania e l'Italia, diciamo anche la carta, diciamo, di un'attenzione nazionalista, sciovinista alla patria, paradossalmente parliamo di due casi diversi ma ugualmente nocivi. In Germania c'è stato un vero e proprio conclamato conflitto di poteri, diciamo, tra tribunale che mandava l'istanza per mantenere Maya nelle prigioni locali proprio per via della sua condizione che in Ungheria non sarebbe stata adeguatamente tutelata, e la polizia che con l'elicottero invece interviene superando gli eventi per agevolare la sua deportazione. Quindi diciamo una Germania che da una parte è succube rispetto a quelle che sono le indicazioni che sono arrivate appunto in queste settimane di marca statunitense rispetto alla messa all'angolo del cosiddetto movimento Antifa, ma anche dall'altra che vive un conflitto interno molto importante nella capacità di tenuta rispetto a quelle che sono le richieste e le pressioni di parte ungherese. Il caso dell'Italia al momento è un pochino più fumoso, dicevo, appunto perché in questo caso di Gabri finora si è parlato molto poco. Prima la vicenda di Ilaria e della sua detenzione, poi della campagna per la sua liberazione hanno avuto un altissimo hype, diciamo così, fino al momento appunto della sua liberazione, ma poi sugli altri persone italiane è caduta un pochino invece una cappa di silenzio, di disinteresse, perché ovviamente non c'era al momento l'elemento così che acchiappa attenzione tristemente della detenzione. Quindi al momento di questa cosa si sta parlando molto poco, anche il lavoro degli ultimi mesi oltre che su Maya per questo si è concentrato invece proprio sulla figura di Gino in Francia, in questi continui ingressi, liberazioni, le nuove forme detentive. Poi insomma è stata una campagna in collegamento con le compa francesi, diciamo, molto intensa, e che forse dal punto di vista anche istituzionale ha riconosciuto una maggiore disponibilità ad esporsi su queste istanze, su questa vertenza. Adesso credo che insomma si andrà un pochino al banco di prova nei prossimi settimane della capacità di riaprire un discorso pubblico sul fatto che sulla lotta all'estradizione, che è una cosa che ci riguarda in questo momento da vicino, ma che già è stato uno dei cardini di questa campagna internazionale Friuli Antifas, e che permette non soltanto, o meglio, non tanto di fare un discorso su quali sono le prigioni in cui si sta meglio o si sta peggio, ma sul fatto che una delle condizioni per mantenersi vicini, diciamo, sia alle reti di solidarietà ma anche alle reti affettive, ai familiari, anche banalmente la capacità, insomma, di condividere la lingua, può permettere insomma un rapporto diverso tra le lotte e chi sta in questo momento pagando il prezzo e deve essere liberato, mentre invece appunto la dimensione internazionale della deportazione complica, oltre che economicamente, appunto anzitutto nella comprensione dei meccanismi, nella capacità di fare pressione, nella capacità di mantenere i legami affettivi. E quindi insomma per tutti questi motivi questo sarà un pochino l'impegno dei prossimi mesi.